mentre Bruno Stagni riusciva a orecchio, suonava la fisarmonica, sapeva suonare il pianoforte, sapeva suonare la chitarra, sapeva suonare il basso, sapeva suonare, era capacissimo. Io no, io ero un appariscente.